Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Grazie a Edo per avervi portato fino a qua. Giulio Caperdoni in vostra compagnia, come tutti i giorni, alle ore 19, anche se questa è l'ultima settimana di Eclettica. Poi ci sarà una sospensione, dopo qualche settimana si riprenderà con una nuova stagione, la stagione numero 14 sulle frequenze di Rock FM. Però nel periodo di sospensione, fra le 19 e 20, comunque ci sarà la musica di Eclettica in rotazione, quindi sarà un distacco, diciamo così, solo parziale. giulio@radiorockfm.com è l'indirizzo di mail per scrivermi direttamente, per iscrivervi alla lista nera di Eclettica con cui ricevere la playlist settimana per settimana e anche l'indicazione della data precisa di inizio della stagione numero 14, e myspace.com/eclettica, il nostro spazio su internet su cui trovare per esempio anche le indicazioni su come avvalersi del podcasting per poter ascoltare come e quando preferite l'intera trasmissione. Palm Springs, California, 18 gennaio. Affilare la lama sulla coramella fissata alla parete, sciogliere il sapone nella ciotola con l'acqua calda, togliere le setole caduche dal pennello in pelo di tasso, insaponarsi il viso, passare il rasoio, rallentare in prossimità della fossetta sul mento, rimuovere i residui di sapone con la pezzuola calda, ispezionarsi il viso alla ricerca di peli superstiti. Carrie si radeva con la destra, apprezzando ogni istante di quella liturgia mattutina a cui seguiva la vestizione sacrale, abito e camicia commissionati a Quintino di Beverly Hills, cravatta intonata col calzino, niente reggicalze perché i calzini di Carrie non osavano scendere la caviglia, derby o full brogs ai piedi. Archie, che era mancino, si sfiorò le guance col palmo della sinistra chiuso a conchiglia. Due giorni senza radersi e senza alcuna voglia di farlo. La peluria brizzolata, ispida, scomoda. Indugiando in quella posa sentì con il labbro inferiore ciò che restava di uno dei vecchi calli d'acrobata, cunetta quasi trentennale di tessuto secco e bianchiccio. Ogni settimana le manicure piallavano e limavano, spargevano unguenti, ammorbidivano le mani di Carrie, mani che ogni donna dell'universo mondo avrebbe voluto sotto la sottana o intente a sbottonarle la blusa, ma il tessuto calloso riprendeva a escrescere, souvenir della vita precedente, il passato di Archibald Alexander Leach. Mani sul pavimento in centinaia di capriole, attrito sulle funi di mille volteggi, bagagli trasportati da una città all'altra, centinaia di teatrini e music halls, truccarsi, saltare. Bob Penders Nippy Nine Burlesque Rehearsal, funamboli, clown e prestidigitatori, ogni sera e matinée di fronte alla classe lavoratrice del regno. Questo era ancora 54 di Wu Ming. Let's be there. This CJ was like no Kazakh woman I had ever seen. She had golden hairs, teeth as white as pearls, and the asshole of a 7-year-old. Gospel è così che viene ormai comunemente definito l'approccio musicale dei Bodies of Water, che hanno aperto con la loro trascinantissima, almeno dal mio punto di vista, It Is Familiar, eclettica di quest'oggi. Ears Will Pop and Eyes Will Blink, questo è il titolo dell'album da cui quel brano è estratto. Abbiamo poi proseguito con i trascinanti The Pigeon Detectives dall'Inghilterra con Take Her Back, ed ora vediamo di ascoltare un nome nuovo per quanto riguarda eclettica, che ci fa riprendere un vecchio discorso, quello legato a che cosa ci sia nell'aria o nell'acqua a Portland per far nascere tante grandi band da quelle parti, Portland, Oregon. Loro si chiamano Menomena, sono usciti nel 2007 con un album dal titolo Friend or Foe per Bar Sook, del quale noi ci ascoltiamo la traccia che ha per titolo Wet and Rusting. It's hard to take risks. Bar Aurora, 19 gennaio. Che in Italia non decidono gli italiani, ecco cos'è, te lo dico io, che se dipende da me, sai dove te li mando gli alleati. C'è un bel da dire che nel 48 abbiamo perso le elezioni, per forza, con tutti i soldi che gli americani hanno dato alla DC e tutti i terroni che vanno dietro i preti. Quelli là, in Bassa Italia, preferiscono così, è così che sono abituati, tirare a campare, vero Valterun? Dillo te, che ci sei nato e cresciuto. Valterun scruta le carte perplesso, senza badare alla domanda di Melega. Quando si parla di politica, Valterun non interviene quasi mai, tanto che qualcuno è arrivato a dubitare della sua provata fede. Sono solo maldicenze, chiaro, però è vero che è difficile sapere come la pensa su un sacco di questioni importanti, come Trieste italiana, la Germania o l'arrivo della televisione. Oggi è Trieste a tenere banco, o meglio, è Mauro Melega, a boccette il migliore di tutto il bar, che parla col solito tono troppo alto e costringe tutti ad ascoltarlo, anche se qualcuno magari vorrebbe pensare ai fatti suoi. Poi si sa come succede, si comincia col più e col meno e si arriva a parlare urbi e torbi anche delle cose gravi e alla fine non sai più da dove eri partito. Tutti democristiani per convenienza, i terroni, perché si sa che gli americani e i preti un regalo ogni tanto te lo fanno sempre, che sia la cioccolata, un paio di scarpe, è sempre lo stesso, ringraziare e zitti. Gli americani e il Vaticano comandano in Italia, tutto perché non si vada al governo noi altri, che poi siamo gli unici che sanno cosa è meglio per l'Italia. Siamo sempre noi che dobbiamo fare per tutti. Guarda bene che casino hanno fatto a Trieste alla fine dell'anno. Danno contro agli americani e agli inglesi, li vogliono cacciare via e c'hanno ragione, poveretti. Mica puoi stare con lo straniero in casa per tutta la vita. Ma gli alleati hanno paura che Tito si prenda Trieste e non si fidano degli italiani. Morale della favola? Sono 10 anni che non mollano e i triestini se lo prendono in quel posto. Valterun alza la testa dalla briscola e allunga il collo. Ma mi spieghi ancora quella storia di Tito, che ogni tanto me la dimentico? Com'è che è un fascista? Voglio dire, è un comunista, ma fascista, vero? Questo era ancora 54 di Wu Ming. Tell me that you love me more. Sleepless long. horse before the car. Those teenage hopes who have tears in their eyes, too scared to run after one little while. Oh, oh, oh, you're changing too hard. Oh, oh, oh, you know who you are. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, and 10. Money can't buy you back the love that you had then. In Kazakhstan, it is illegal for more than 5 women to be in the same place, except for in brothel or in grave. In USA, many women meet in a groups called the feminists. I'm thinking hard about all the things I've been. Le playlist di Eclettica che potete trovare su myspace.com/eclettica oppure ricevere direttamente nella vostra casella di posta, nel caso vi siate iscritti alla lista nera mandando un mail a giulio@radiorockfm.com. Ecco, quelle playlist contengono il dettaglio di quello che succede in trasmissione in termini di canzoni, di letture e di sprazzi cinematografici. In quella di questa settimana troverete che appunto il brano 1, 2, 3, 4 ascoltato due brani fa ha un certo riferimento, meglio chi ne è l'interprete, però a tutti gli effetti quello è un brano corale. Pensate che al di là del nome che troverete in playlist e che non vi svelo, 1, 2, 3, 4 vede presenti anche membri dei The Broken Social Scene, dei New Pornographers, dei Grizzly Bear e dei The National. Insomma, un grande evento per quanto riguarda quel brano. Poi ci siamo ascoltati un artista che proviene da Providence, Rhode Island, ovvero sia Chris McCauley, che però si presenta con un progetto di nome DRTIC, Dirty Dishes, e il brano Malinconico, che si è appena chiuso. Si rimane negli Stati Uniti per chiudere questa prima parte di Eclettica. Vi ricordo che poi ce ne sarà altrettanto per arrivare fino alle 20. No Age è il nome del duo losangelino che ci ascoltiamo con My Life's Alright Without You.